prima puntata di dicembre, col freddo pungente dei riscaldamenti delle case Haller a mezzo regime a causa della crisi energetica scaturita anche dal conflitto russo-ucraino. Continuiamo con le puntate di Radio Tagadà, la radio che racconta cose a bolle in pentola a Milano e dintorni. Ricordiamo che se volete potete contattarci al 351 5579 698 via Telegram, potete scriverci alla mail radiotagadà@autistici.org e potete seguirci sui nostri social sia su Facebook che Instagram. Andiamo in onda in FM sulle frequenze a Milano di Radio Onda d'Urto 98.0 e a San Giuliano Milanese 88.0. Potete ascoltarci anche in streaming cliccando su Ascolta la diretta dal sito di Radio Onda d'Urto e dal nostro blog cronachediregime.noblogs.org, sempre cliccando Ascoltando la diretta. Ricordiamo che sul nostro blog potrete trovare anche tutti i podcast caricati delle varie puntate da ottobre in poi. E ricordiamo che usciamo anche con il nuovo sistema audio digitale, delle frequenze digitali, il DAB e il DAB+, basta cercare il canale Onda d'Urto. Bene, oggi continueremo a darvi aggiornamenti sulla situazione di Alfredo Cospito, ormai al 45esimo giorno di sciopero della fame. Poi daremo un po' di spazio alle ragazze scatenate dello sport popolare milanese ed oggi tocca alle Girls di Gorla, parleremo con un atleta infatti della squadra FIR della Stella Rossa Rugby Milano. Poi andremo a presentare un'importante iniziativa e parleremo con un compagno che prova a riportare l'arte teatrale nei quartieri, nei cortili, nei parchetti e negli spazi sociali. Presenteremo La Città del Sole e Il Crepuscolo della Ragione e capiremo com'è possibile rendere inclusivo ed accessibile a tutte e tutti il teatro, cercando di non farlo rimanere rinchiuso in quei posti che troppo spesso sono quasi esclusivi per i ceti medio-borghesi. Bene, ora iniziamo subito con un po' di musica, partiamo con i The International Noise Conspiracy. Vai Dyna! Baby, don't go back no more. This is my ugly legacy. Abbiamo ascoltato i The International Noise Conspiracy, band punk garage svedese attiva tra il 98 e il 2009. Il brano Capitalist Stole My Virginity è tratto dal disco A New Morning Changing Weather del 2001. Allora, come detto prima nell'anticipazione e nella scaletta della programmazione di oggi, andiamo a collegarci con un compagno che ci parlerà un po' della situazione di Alfredo Cospito, compagno anarchico rivoluzionario, recluso dal 5 maggio nel carcere di Bancali a Sassari, in regime di 41 bis e in sciopero della fame dal 20 di ottobre, quindi ormai al 45esimo giorno di sciopero della fame. Ciao, ci senti? Aspetta che abbiamo dei problemi. Ora ci senti? Io vi sento molto bene, voi mi sentite? Ok, ora sì. Ciao, grazie e benvenuto a Radio Tagadà. Ciao. Ok, allora, iniziamo pure. Con un po', insomma, se ci vuoi dare un po' di aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alfredo e anche su quelle condizioni, insomma, burocratico-legali e processuali che lo riguardano. Sì, allora, questi diciamo che è iniziata ieri dei giorni importanti per la situazione di Alfredo. Ieri c'è stata l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, l'unico tribunale che si può esprimere in merito al 41 bis, appunto per esprimersi riguardo la sua richiesta di non sottostare più a questo regime. Appunto diciamo che questa richiesta può essere fatta una volta e vale per i primi 4 anni e poi ogni 2 anni deve essere rinnovato. Ieri numerosi sono stati i presidi e le iniziative e invece poi ci sarà il 5 dicembre, altra data molto importante, dove invece ci sarà l'appello per l'operazione Scriptamanent, un appello che sarà una condanna certa, possiamo dire, per strage politica, un reato molto pesante che non è stato riconosciuto per nessuno fatto, diciamo come quali stragisti, in cui lo stragista era lo Stato, come Piazza Fontana o come la strage di Bologna, oppure anche per le stragi di Capaci non è stato riconosciuto questo reato, invece viene dato ad Alfredo e un'altra compagna, Anna, per i fatti della caserma di Fossano, dove appunto dei plichi venivano posizionati e fatti esplodere fuori da questa caserma senza creare feriti né morti. Appunto, la giornata di ieri ci sono state molte iniziative. A noi, a Milano, ci è stato lanciato un presidio pubblico, però siamo riusciti con molta agilità a calare uno striscione fuori appunto dal tribunale che citava Alfredo Libero, no al 41 bis. Alcuni compagni sono riusciti a entrare con questo striscione, a calarlo intorno alle 10 del mattino. La polizia all'inizio non si era resa conto di questa cosa, al che un intervento e dei cori fatti da fuori hanno richiamato l'attenzione su questo fatto, compagni sono stati fermati, lo striscione è stato tolto, dopodiché subito prontamente rilasciati, però diciamo era un gesto eclatante, un gesto che appunto è uscito su tutti i giornali, anche Milano Today, Repubblica, una cosa strana, visto pensare che un mese fa di un compagno, di un anarchico in 41 bis non ne parlava nessuno, ora pure su Vanity Fair, qualsiasi giornale parla di questa storia. Sì, addirittura su Radio Capital anche la Bignardi ha fatto un'intervista a Flavio Rossi Albertini, all'avvocato di Alfredo. È abbastanza strano e comunque con posizioni particolari, perché molti, anche il giornalismo dei mass media è comune, fa notare quanto sia assurdo questa detenzione in 41 bis per un compagno anarchico, il primo anarchico al 41 bis, se non mi sbaglio, e il fatto che gli venga riconosciuto il reato come strage politica per un attacco per cui non ci sono stati né morti né feriti, e mentre veramente per le stragi di Bologna, della stazione di Bologna, non viene riconosciuto quel reato, è veramente una cosa strana, e che anche i mass media si esprimano in questa direzione. Altre iniziative ci sono state poi a Torino, dove c'è stato un presidio, un tribunale di sorveglianza. Io non ero presente, ma leggendo e sentendo, la zona era molto militarizzata, piena di camionette, come solo Torino sa fare, e non ci si riusciva in alcun modo ad avvicinare. Ricordiamo che il tribunale di sorveglianza di Torino si trova in via Bologna, quindi zona Aurora, vicino all'ex asilo. A Roma sempre c'è stato un presidio, forse il presidio più importante a livello di significato, sempre fuori il timone di sorveglianza, e ascoltando alcune dirette, leggendo, mi pareva di capire che già dalla mattina presto la via era chiusa e chiunque si volesse avvicinare a questo, al tribunale, veniva chiesto il tesserino dell'avvocato, appunto, di appunto farsi dichiararsi come avvocato. Questa è la risposta che lo Stato dà a quelli che sono dei presidi. Ricordiamoci poi la risposta che aveva dato a quello che era stato un tentativo di corteo, anzi a Roma, quando alcuni compagni avevano deciso, un bel po' di compagni avevano deciso di ritrovarsi, aveva militarizzato tutto Trastevere. Quindi è veramente una situazione scomoda, dove però i compagni, a parer mio, si stanno muovendo molto bene, si sta riuscendo a far uscire la notizia, a far sì che di questa cosa, di un anarchico a 41 bis si parli, di un compagno in sciopero della fame soprattutto ormai da 45 giorni e che pare stia perdendo innumerevoli chili. Le notizie poi arrivano sempre frammentate, perché comunque comunicare con lui è impossibile, comunicare con l'avvocato è difficile se non è impossibile, poiché si rischia di creare un pericolo di sicurezza per l'avvocato, quindi non si può fare. E quindi le notizie sono per assurdo quelli che riceviamo dai giornali, che Alfredo sì, sta bene, ha un medico di fiducia che lo va a visitare, sta bene, ha perso numerosi chili, pare 20, però è pur sempre il 45esimo giorno di sciopero della fame. Ricordiamo che poi per lui non è il primo sciopero della fame nella sua detenzione. Sì, aveva fatto un altro sciopero della fame un po' di anni fa, e aveva avuto anche dei problemi fisici, esatto. Ha avuto già l'asportazione di una cistifellea. Tra l'altro, sulla roba che dicevi tu dell'avvocato, nel senso, per fortuna, tra virgolette, comunque gli avvocati, in caso gli proveranno a battere qualcosa, lo Stato, e sicuramente lo Stato ci proverà, possono appellarsi al fatto che far uscire delle notizie sullo stato di salute di un loro assistito non è reato, mentre tutto ciò che concerne, insomma, quello che non è lo stato di salute, soprattutto per le persone in 41 bis, insomma, costituisce un reato specifico con l'aggravante se sono avvocati. Allora, a Milano si sono smosse un po' le acque, diciamo che la prima azione, tra virgolette, che ha richiamato molto l'attenzione, abbastanza eclatante, è stata quella della salita sulla gru del cantiere del Teatro della Scala. C'è stato anche uno spezzone libertario all'interno di un corteo il 26 novembre, come dicevi tu, il preside al tribunale. Quindi ora volevamo chiederti com'è un po' la situazione in divenire, se ci sono già delle prossime iniziative in programma, magari ci saranno, non saranno, insomma, rese note. Tra l'altro volevo aggiungere che la solidarietà anche a livello internazionale si sta espandendo, stanno avvenendo tutta una serie di azioni solidali, presidi, iniziative, cortei davvero in tutta Europa, in tutto il mondo. E se, insomma, in divenire, sia a livello, volevamo chiederti delle cose in divenire, sia a livello di locale, iniziative, ma soprattutto anche a livello di salute di Alfredo, nel senso, siamo al 45esimo giorno, a breve, se si continua, come funziona, come funzionerà, sarà ospedalizzato, ci sarà l'alimentazione forzata, noi non sappiamo se puoi sapere qualcosa, insomma, riguardo a livello giuridico di come possa funzionare, però se voglia di raccontarci, insomma, del futuro di questa situazione, se sempre si può provare a raccontare di una cosa in divenire, ecco. Allora, sì, io inizierei, sì, appunto dalla seconda parte. La seconda parte, per quanto è molto critica la situazione, comunque, appunto, quello che dicevi tu, ha già fatto un altro sciopero della fame, ma mi sembra anche più di uno, e non ha problemi di salute. Ormai iniziano ad essere 45 giorni. Io personalmente mi sono informato tramite un avvocato per capire la questione in merito all'alimentazione forzata. Ecco, allora, la questione è abbastanza, diciamo, serena sotto questo punto di vista, ovvero in Italia ci si può rifiutare di sottoporsi alle cure, e quindi questa cosa mette Alfredo, diciamo, in una certa tranquillità, nel senso, nel momento in cui il medico curante, che non è il medico scelto da Alfredo, il suo medico di fiducia, ma il medico curante del carcere, dirà che è necessario ricorrere all'alimentazione forzata, Alfredo si può sempre rifiutare. Si può sempre rifiutare, e questa cosa lo mette al sicuro, a meno che si esponga a un giudice e lo dichiari non capace di intendere di volere. Però lì si aprirebbe un'altra parte di storia, che speriamo non si apra, perché sarebbe veramente assurda, perché Alfredo mi sembra tutto fuorché capace di intendere di volere. In questo caso mi sembra lucidissima, anzi, la sua protesta, il suo sciopero della fame. Quindi o un giudice lo dichiara incapace di intendere di volere, e quindi lì gli faranno quello che viene definito un TSO non psichiatrico, però comunque lo obbligheranno a prendere un'alimentazione che diventerà proprio a quel punto forzata ma in tutti i sensi, oppure lui si potrà rifiutare, potrà comunque continuare a rifiutare le cure. Quindi questa cosa sull'alimentazione forzata è un po' più tranquilla. Dopodiché i problemi di salute rimangono, una possibile ospedalizzazione credo ci possa essere, e credo che comunque che anche lì sia un po' difficile la questione, perché comunque ricordiamo che il 41 bis richiede di alcuni crismi di sicurezza altissimi, e quindi bisognerà capire se il carcere di Bancali ha, io non lo so, però bisognerà vedere se il carcere di Bancali ha un'assistenza ospedaliera capace di garantire la sicurezza richiesta dal regime di 41 bis. Era successo durante comunque pandemia Covid che alcuni detenuti in 41 bis fossero momentaneamente declassati a un regime di sicurezza normale, proprio perché a livello sanitario non si era in grado di garantire quella sicurezza. E quindi anche qui si apre un'altra parentesi particolare: nel momento in cui sarà necessaria l'ospedalizzazione, bisognerà capire in quale ospedale Alfredo verrà portato. Speriamo di non arrivare a queste cose. Ieri c'è stata questa udienza dell'1 dicembre che appunto farà capire tutto. C'è stata un'altra interrogazione parlamentare di Ilaria Cucchi, ho letto di recente, sempre per riguardo la situazione di Alfredo e i suicidi nelle carceri. Non so, io non penso che le interrogazioni parlamentari possano cambiare le cose, però anche quella parte di politica si sta muovendo ed è molto particolare per un anarchico che qualcuno si muova così tanto. Questo fa un po' riflettere sulla gravità forse della situazione. Per quanto riguarda invece le iniziative future, vabbè, io personalmente rilancio una convergenza, diciamo, su Torino per il 5 dicembre, che ci sarà un presidio fuori dal Tribunale di Torino, appunto perché ci sarà l'appello dell'operazione Scriptamanent, dove appunto Alfredo e un'altra compagna, Anna, rischieranno di ricevere una pena altissima con un ergastolo ostativo addirittura. Scusa, ci sarà un presidio. Ti correggo, non è che è proprio l'appello, no? È la rivisitazione della pena da parte del Tribunale di Appello su indicazione della Cassazione di della Roma. Cassazione, esatto, bravo. Sì, sarebbe un appello, cioè un secondo appello, perché l'appello c'è già stato. E quindi ci sarà questo presidio, speriamo partecipato. Allora, a Milano noi personalmente di iniziative in programma abbiamo sicuramente la partecipazione il 12 dicembre al corteo per la strage di Piazza Fontana. Sarà una partecipazione comunque critica, perché nel senso in un momento come quello attuale, in cui gli anarchici sono visti come il nemico del mondo e vengono visti come quello da attaccare, da annientare in tutti i modi, ci sembra quasi di ripercorrere una storia già vista. Cioè nel 1969 viene messa una bomba in Piazza Fontana e vengono accusati degli anarchici, quando poi la mandante è lo Stato e a metterla sono i fascisti. Quindi diciamo saremo lì convinti che le stragi le fa lo Stato, ribadendo questo concetto che stiamo portando avanti, questa linea di pensiero che stiamo portando avanti da tempo, dall'inizio dell'operazione, da quando a Quan volevano riconoscere il reato di strage politica per l'attacco alla sede della Lega di Treviso, fino adesso che ad Alfredo e ad Anna viene riconosciuto il reato di strage politica. Saremo convinti che le stragi le fa lo Stato e portiamo sempre solidarietà a chi in ogni modo cerca di opporsi e di attaccarlo, quindi avremo uno spezzone a questo corteo. Altre iniziative ora non ne vengono in mente. Ovviamente se la mobilitazione andrà avanti sarà necessario pensare qualcosa. È comunque importante quello che dicevi tu, anche la mobilitazione che sta avvenendo a livello internazionale. Sono tantissime le azioni, da striscionate a cortei o a azioni rivendicate che avvengono in tutta Europa. Una cosa che io non mi aspettavo a questi livelli, è che sono molto felice di vedere che comunque per una situazione del genere c'è una grande mobilitazione, ci sono tanti compagni pronti a spendersi. Sì, insomma Alfredo non è solo. Va bene, dai, noi ti ringraziamo e speriamo di avere aggiornamenti in propositivo. Stiamo seguendo noi la situazione di Alfredo con la radio quasi settimanalmente, speriamo di avere magari delle buone news. Speriamo anche di averle a breve, perché comunque la situazione si fa sempre più critica, sì, sempre più critica a livello di salute. Ci vediamo il 5 dicembre a Torino e il 12 dicembre a Milano al corteo. Allora, perfetto, grazie mille, noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona iniziativa a Saronno, che sappiamo grazie mille che sarà lì. Buona giornata. Ciao a voi. Ciao. A te e a voi. Ciao. Allora, dopo questo importantissimo aggiornamento sulle condizioni del compagno Alfredo Cospito, a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ricordiamo anche che insieme ad Alfredo Cospito altri tre tra compagni e compagne detenuti in galera avevano iniziato uno sciopero della fame, tra cui Anna, Juan e Ivan Alocco dalla Francia. Ivan e Juan hanno terminato lo sciopero della fame, Anna... su Anna non ci pare che sia terminato, ma le mie informazioni potrebbero essere insomma non troppo corrette. Comunque, come dicevamo, la nostra vicinanza e solidarietà, oltre che Alfredo, va ad Anna, Juan e Ivan. Ora continuiamo con un po' di musica, prima doppietta musicale di quest'oggi. Iniziamo con i Generous Gods. To see amphetamine nose job fits her face. Got nowhere to go if you leave this place. Killing me, you're spilling my blood. next friend lying in a more crowd, say a hunted mouse for all of the human company. Allora, prima doppietta musicale di questa ottava puntata di Radio Tagadà. Questi erano i Generous Gods con Spilling My Blood, band statunitense, Spilling My Blood, primo singolo pubblicato nel giugno 2021 per questa formazione, insomma, dagli USA. E poi abbiamo sentito i Zombina and the Skeletons con I Was a Human Bomb for the FBI. Questo gruppo, Zombina and the Skeletons, invece vengono dalla Gran Bretagna, gruppo horror punk attivo tra il 98 e il 2017, è influenzato nelle musiche dai grandissimi Misfits, Meteors e Damned. Andiamo avanti con la seconda intervista di oggi, spazio allo sport popolare e come sempre spazio alle ragazze che spingono a Milano. Oggi andiamo a Gorla, al centro sportivo Cameroni di Via Beghi 2, Sponda Rugby, e in linea con noi un atleta della squadra FIR della Stella Rossa Rugby Milano. Ciao, ci senti? Sì, sì. Ok, ciao, allora grazie e benvenuta a Radio Tagadà. Grazie. Ok, niente, allora come detto prima, appunto come detto Aurora, presentiamo, proviamo a parlare un po' della squadra FIR della Stella Rossa Rugby a Milano. Se hai voglia di dirci due parole sulla Stella Rossa e come nasce l'idea di avere una squadra FIR femminile. Sì, certo. Allora, la squadra FIR femminile, appunto, che si differenzia dalla maschile, che è un campionato WISP, è nata proprio dal fatto che giocando misti non tutti i componenti della squadra avrebbero avuto, diciamo, le potenzialità per poter essere convocate o comunque avere un ruolo attivo nelle eventuali partite nel campionato. Quindi è nato così, giusto per dare una potenzialità più grande alla squadra, ai membri femminili della squadra, che poi è diventata anche diciamo, una causa portata avanti per il rugby femminile, dunque per la rappresentazione femminile all'interno di sport tipicamente maschili, come il rugby ma anche il calcio. Infatti abbiamo condiviso degli allenamenti con altre squadre femminili di calcio e condividiamo il campo con società femminili di calcio, quindi è iniziato per un motivo di per avere più occasioni per metterci in gioco, e poi abbiamo deciso di perseguire la causa dello sport del rugby femminile. Ok, ti volevo chiedere quali sono le attività sociali della squadra al di là di allenamenti e raduni, poi dopo andiamo a parlare anche del raduno, insomma, che ci sarà domenica a Genova, però ti volevo chiedere se oltre agli allenamenti e le partite, insomma, ufficiali, la Stella Rossa, diciamo FIR o cosiddetta femminile, si muove anche in maniera differente dai momenti ufficiosi, insomma, della squadra. Sì, sì, certo, appunto, come ho detto, il campionato FIR è stato scelto per avere più occasioni per giocare, però al di là di campionati ufficiali come FIR o WISP, ci sono un sacco di occasioni di rugby e sport popolare in generale, dove abbiamo avuto occasione di giocare in misti o comunque di sperimentare, cioè di viverci lo sport in un modo diverso, nel modo anche più, diciamo, nel modo favorito dalla stella come squadra in generale, non solamente come maschile o come femminile. Per fare un esempio, c'è stato proprio questa domenica un incontro a Torino con la Dynamo Dora, che è una squadra appunto torinese che gioca però mista, e noi c'è stata la possibilità anche di alla fine di questo allenamento condiviso, che è, diciamo, più a sfondo però femminista, quindi ci sono state delle squadre femminili sia di rugby che di calcio da allenarsi assieme, abbiamo avuto l'occasione anche di giocare misti. Si parlava tra l'altro anche ieri, c'è stata un'assemblea, quindi anche questa, diciamo, intervista cade a pennello, perché abbiamo giusto parlato ieri di voler organizzare questa primavera due giornate di rugby popolare naturalmente al campo di Gorla. Naturalmente già da è ancora da organizzare, però dovremmo appunto coinvolgere molte squadre che possono raggiungerci, e potrebbe diventare anche quello un'occasione per giocare misti. Quindi sì, cioè, si cerca comunque di creare situazioni in cui possiamo giocare misti al di là del campionato, che invece diciamo per crescere dobbiamo anche come squadra femminile dobbiamo giocare in campionati femminili, sennò la squadra femminile si disintegrerebbe e la nostra causa andrebbe persa. Sì, riguardo insomma le occasioni per giocare misti, diciamo che da tutta questa estate ci sono state tutta una serie di raduni organizzati sia dalla realtà di rugby sportiva a Milano, ma anche compleanno della Stella Rossa, Dinamo d'Oro, i cinghiali sì, a Bologna, diciamo in tutta Italia ci sono state occasioni e momenti. Sì, anche a Roma. Dove, a Roma diciamo non è che era misto, proprio perché il Seven diviso femminile e maschile, però poi dopo sì, stando lì 2 o 3 giorni insomma c'è anche occasione di farsi un toccatino, una partitella tutti assieme. E a proposito della primavera, già ci siamo, rilanciamo anche la giornata di sport popolare del 19 marzo per Dax, che si sta provando ad organizzare già da ore, dove verranno chiamate anche varie squadre a titolo internazionale, dove si giocherà misto. Comunque l'idea è di fare una franchigia mista milanese. Va bene, non so se volevi rilanciare insomma anche la partita che ci sarà domenica, certo, 4, certo, giusto, a Genova. Sì, questa domenica sì, a Genova. Perché fate l'esordio in campionato in Coppa, esatto, Italia Seven, sì, quindi sì, è molto, sì, importante, sì, se volete rilanciarla. È molto importante anche perché non so quante occasioni altre ci saranno. Faremo altre partite naturalmente, però il campionato Seven, diciamo, femminile è in grande difficoltà, mi sembra, in Nord Italia, perché in Lombardia non c'è stata nessuna partita e dovremmo sempre fare trasferte. La prossima trasferta sarà il 18 e sarà a Torino, quindi sempre in Piemonte. In Lombardia non c'è niente, perché molte squadre serve sono state inglobate da società più grandi che giocano però a 15, quindi, okay, infatti quindi si spera, insomma, che un giorno riusciremo a fare una squadra per giocare a 15, avremo molte più occasioni per giocare sicuramente. Ok, va bene, quindi insomma gli appuntamenti sono il 4 a Genova alle 10:30, sì, allo stadio Carlini, dove ci sarà, sì, il secondo appuntamento delle tappe di Coppa Italia Seven Olimpica a tutto campo, e poi il 18 dicembre a Torino, vero? A Torino, sì, a San Mauro Torinese, per capirci, questo non lo forse San Mauro Torinese, forse San Mauro Torinese, sì. Va bene, dai, poi dopo ci aggiorniamo, tanto facciamo la rubrica di sport popolare, ci diamo sempre sia Stella Rossa Rugby che Stella Rossa, cioè le due Stelle Rosse, insomma, la squadra Wisp e la squadra Fir. Va bene, dai, noi ti ringraziamo e andiamo avanti con la trasmissione. Grazie, e in bocca voi al lupo per domenica, e saluta tutte. Crepi, crepi. Grazie. Ciao, ciao. Buona continuazione. Bene, ringraziamo la compagna, sempre dallo spazio comune Cuore in Gola, sempre Pasca la Voce e Dynamite Controlli, che a sto giro ci consiglia Giorgio Canali, Come quando fuori piove. In questa traccia Giorgio Canali, accompagnato dai Rosso Fuoco, con il brano appunto Come quando fuori piove, presente sull'album Tutti contro tutti, pubblicato nel 2007 con La Tempesta Dischi, e dedicato a Federico Aldrovandi, per chi non sapesse o non si ricordasse chi è Federico Aldrovandi, è appunto un ragazzo che è stato ucciso a Ferrara dalle forze dell'ordine. Un vero mix di rock viscerale e testi pungenti che descrivono una società ridotta alla miseria. Giorgio Canali, ricordiamo, è un chitarrista, cantautore, produttore discografico ed ingegnere del suono italiano. Attivo inizialmente come tecnico del suono a fianco dei gruppi quali PFM, Litfiba e CCCP, fedele alla linea, entra come chitarrista nella formazione di questi ultimi, nelle successive reincarnazioni, CSI e PGR, per poi avviare la carriera solista accompagnato dai Rosso Fuoco e affermarsi anche come produttore discografico, tracciando così un percorso importante nel rock alternativo italiano. Dai, Super DJ! Come quando non ragiono più, come quando mi agito, come quando guardo la TV, come quando vedi i bagliori all'orizzonte, come quando l'inferno non è poi così distante, come quando è il lamento del cuore. Riuscire a salire, ai ai ai ai ai ai. Come quando il mondo gira, come quando non mi muovo, come quando mi manco tanto, come quando non mi trovo, come quando corre il tempo, come quando resti indietro, come quando il giro tondo lascia senza fiato, giù per terra, senza fiato. Come quando scivola, come quando parli piano, come quando ti sento comunque, come quando sono lontano, come quando ti manco, come quando ce l'hai con me, come quando non ti leggo, come quando manchi a me. Come quando perdi la stronzata in un casino e perdo il tempo, come quando la banda suona, come quando non la sento, come quando fischia il sasso, come quando fischia il vento, come quando fischia il vento, come quando fa ridere, come quando fa piangere, come quando ci interessa solo a quanto si può vendere, come quando ho torto, come quando ragione, come quando canto e mi strozza l'emozione, come quando è il lamento del cuore. le parole di troppi per riuscire a salire. Come quando ai ai ai ai ai ai. Come quando ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai. Tutto lo sport popolare minuto per minuto. Iniziamo rilanciando ancora una volta dalle ragazze del rugby. Domani dalle 10.30 in poi presso lo stadio Carlini di Genova, primo raggruppamento per le nostre Heroes della Pallovale, con la seconda tappa di Coppa Italia 7 Olimpico tutto campo, giocato nella bella città dei Caruggi. I Kids invece in questo turno riposano, ci doveva essere un'amichevole con la Dinamo d'Ora ma è saltata, quindi tutto pronto per il 18 dicembre per la trasferta col bus da 50 che stanno preparando per andare a Mulazzo in Lunigiana ad affrontare il farafulla Lunigiana Rugby. Bella vittoria per 5-3 dell'Ardita Giambellino maschile nel campionato CSI di calcio a 7 in trasferta a Cornaredo martedì scorso. I nerarancia giocheranno ora l'8 dicembre a Sant'Ambrogio alle 22 contro l'Aspis Titanio tra le mura casalinghe. I ragazzi invece perdono 4-1 in casa contro le Rosa Fluo del Partizan e giocheranno la prossima il 10 dicembre in trasferta contro Assisi. Rimaniamo sempre nel girone B della categoria B del calcio open femminile e partiamo proprio dalle Rosa Fluo, che in questa settimana hanno ribadito la loro superiorità attuale nei confronti delle altre due squadre di calcio popolare che seguiamo qui a Radio Tagadà. Come detto sopra, prima 4-1 rifilata all'Ardita fuori casa e 3-1 al campo in via Fleming contro le ragazze della Sant'Ambrose. Terzo posto a pari merito col Vittoria, meno 4 dalla Vetta e tanta carichanza in quel di Bonola. L'altro fanalino di coda del girone insieme all'Ardita è la Santa Femminile. Ora testa lunedì dove affronteranno l'Assisi in casa per racimolare punti. CSI calcio ad 11, nel girone B della categoria A, il Partizan vince 4-2 con il Real Cornaredo in casa e giocheranno la prossima martedì, sempre in casa con il Rosario. Quarta a meno 9 dalla Vette ma con due partite da recuperare. Nel girone B della categoria B invece la Sant'Ambrose rimane sesta a 10 punti, smuove solo la classifica di un punto pareggiando in casa contro il Football City ed è attesa domenica pomeriggio alle 16.30 nella trasferta contro Greco San Martino. Ed ora andiamo a parlare delle squadre che giocano in FIGC. Partiamo con il Partizan, seconda categoria, girone P Lombardo. Il Partizan Bonola, Corsaro 3-1 contro la Virtus Cornaredo, torna in terza alla classifica e si porta a più 2 sulla Real Trezzano che pareggia col Victor Ro 1-1. La prossima sarà domenica alle 18 in casa contro l'Idrossar Cesano Boscone. Sempre in seconda categoria, la Sant'Ambrose, penultima a 6 punti, smuove la classifica con un punticino grazie al pareggio con Novate. Domenica trasferta invece contro il San Giorgio 1980 per la 14ª giornata valevole per il del girone Q della regione Lombardia sempre. Chiudiamo andando in provincia di Varese, o meglio dei ragazzi della frazione calcistica Dal Pozzo. In terza categoria i gialloverdi vincono 3-1 in trasferta a Sedriano e consolidano il loro primo posto a 31 punti a più 8 e più 11 sulle prime inseguitrici. Ancora imbattuti, la prossima sarà domani contro il Mascagni in casa dalle ore 15. CSI a 7, i ragazzi gialloverdi invece prendono un bel cappottone 6-1 a Desio e giocheranno la prossima il 9 dicembre in casa contro Seregno, situazione di metà classifica con 9 punti. Vedremo come andrà il resto del campionato. Ed ora super traccione, ci ascoltiamo gli Stardust con Music Sound Better With You. Bye Dyna. The music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Stardust, trio francese formato dai produttori disc jockey Thomas Bangalter e Alan Breaks e vocalist Benjamin Diamond. I Stardust raggiunsero un'enorme popolarità grazie appunto a questo brano Music Sound Better With You, realizzato nel 98 e da molti indicato come la più bella canzone house del millennio. Ed ora, come di consueto, le nostre notiziacce dal web che recupera il super DJ Dynamite. Partiamo con una notizia di carattere internazionale. In Thailandia, nel distretto di Bung San Phan, nella provincia di Phetchabawan, nel nord del paese, è stato chiuso un tempio di monaci buddisti, poiché appunto tutti i monaci al loro interno sono risultati positivi al test antidroga ed in particolare positivi alle metanfetamine. I tre monaci e l'abate sono stati portati in una clinica specializzata, Gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati per la probabile mancanza di cerimonie, e mochi le faste cerimonie, ma soprattutto con questa chiusura del tempio il governo thailandese è sicuramente riuscito a contrastare il traffico di droga. Nel caso specifico, il transito della metanfetamina che arriva in Thailandia dallo stato birmano di Shan attraverso il Laos. Capirai che efficienza questa antidroga contro i monaci buddisti. Ma da Bung San Phan a Rimini passiamo invece sulla riviera romagnola. A quanto pare una ragazza alquanto alticcia, scusate mi sono persa la notizia, una ragazza alquanto alticcia torna a casa ma sbaglia clamorosamente la porta del proprio appartamento e si va a infilare in quello del vicino. La giovane quindi sorprende così una persona sotto la doccia, ma era il padrone di casa che si sta facendo la doccia. E forse ritenendolo un malvivente lo aggredisce con un violento strappo alle parti basse, tanto da provocargli un trauma alla sacca scrotale per una prognosi inferiore ai 20 giorni, per la quale poi è stata tra l'altro denunciata a piede libero. Insomma, gli ha letteralmente tentato di strappare i coglioni, quindi occhio a non lasciare la porta aperta se siete in casa, perché magari ubriaco ed ubriache possono sempre strapparvi i genitali. E ora andiamo nel Lazio, dove ha logicamente stravinto la coalizione di fascisti che ora ci governa e ci manderà a rotoli e allo sfascio. Comunque, nello specifico andiamo ad Ardea. L'assessora della Lega, forse non sazia del suo ruolo di potere, si candida al concorso da vigile urbano e lo vince. Storie italiane da clientelarismo mastelliano in ottica da supereroi dei meganoidi. Che fa, ce la metti dai nei supereroi meganoidi? No, no, dice di no. Ah no, non posso sentirla, ti rifiuti? Beh, facci sentire cosa riserva i nostri ascoltatori e ascoltatrici, dai. We'll be right back.

They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. Cause when the strides are here to come, I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. Feels like a barbarian, you're still out. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please. Allora, i primi erano i The Death 60s con Riot Radio, gruppo musicale ska punk britannico originario di Liverpool, attivo dal 2003 al 2008, e poi abbiamo sentito If I Ever Feel Better dei francesi Phoenix, che usano appunto un termine pugilistico, gruppo pop rock francese con If I Ever Feel Better, brano di punta uscito nel 2000 sull'album United. Ora siamo quasi alla fine del programma, come di consueto spazio alle iniziative che ci saranno a Milano in settimana. Ricordiamo che la maggior parte delle iniziative le troviamo sul sito puntello.org, che è questo sito nuovo dove tutte e tutti, previa la registrazione al sito, possono pubblicare le loro iniziative. Un ottimo modo, semplice, chiaro ed efficace per avere un calendario a disposizione di ciò che accade a Milano e dintorni. Ricordiamo quindi il sito puntello.org, e ora andiamo a segnalarvi le iniziative di settimana prossima. Partiamo da da sabato 3 dicembre dalle ore 13 al Cuore in Gola, barbecue acceso per finanziare i lavori della serigrafia ticinese. Tutto il pomeriggio e fino alla sera ci sarà musica, bar, street food, distro e serigrafia. E poi andiamo in Calusca invece sabato 3 dicembre dalle ore 17, non è un pranzo di gala, indagine sulla letteratura working class di Alberto Prunetti e le strade di Alphaville, conflitto immaginario e stili nella paraletteratura di Valerio Evangelisti, la presentazione di questi due libri, e parteciperanno Alberto Prunetti, Alberto Sebastiani, curatore dell'antologia di Evangelisti, redacta Mark Tibaldi. Andiamo invece presso il cantiere a Milano in Viale Monterosa 10, dalle ore 5:30, Ticket to Palestine, una serata per sostenere chi resiste, quindi una serata per la lotta palestinese. Andiamo poi dal cantiere al piano terra in zona Porta Nuova Garibaldi, aperitivo con musica dal vivo e DJ set dalle ore 18 per finanziare le iniziative legate al villaggio ecologico di Granara, quindi piano terra in via Confalonieri 3 dalle ore 18 all'1 ci sarà questo aperitivo musicale. Akin Bey, Peter Lamborn Wilson, nato nel 1945 e morto nel 2022, dall'anarchismo spirituale al sufismo beat, scusate, dal cyberpunk alle zone autonome temporanee, dal terrorismo poetico al nuovo nichilismo, dalle ore 19:30 cena popolare, dalle ore 21 interventi, Kautz, Tobia D'Onofrio, Gomma Guarnieri, Marco Filopat, Raff Valvola. Chelsea. E poi dalle ore 23 live performance, questa iniziativa sarà in Cascina Torchiera in Piazzale Cimitero 18, Piazzale Cimitero Maggiore 18 a Milano. Come detto, stasera dalle ore 21 al Conchetta, La città del sole, Crepuscolo della regione, in autodrammaturgia con Moreno, abbiamo appena parlato prima appunto con Moreno di questa iniziativa. Passiamo a domenica 4 dicembre ci sarà il mercato agricolo e delle autoproduzioni dalle ore 11, apertura del mercato dalle ore 13 pranzo, ore 15:30 presentazione del libro Ci vuole tempo, la storia dell'evoluzione raccontata da un sasso con l'autrice Claudia Mendini, a seguire laboratorio per piccole e grandi, quanti sassi ci sono al mondo, Sassolino ha incontrato tanti amici ma la loro storia non è ancora scritta, mi aiutate? Questa iniziativa si terrà insomma nel parchetto Primo Moroni di fronte al Cox 18. Sempre domenica 4 dicembre dalle ore 15 Donna Vita Libertà in collaborazione con Together for Iran e la comunità curda da Milano, è organizzato da Milano Antifascista Antirazzista, Meticcia e Solidale, ci sarà questo presidio corteo contro ogni fascismo e contro ogni guerra dalle ore 15 in piazza Fontana. Ricordiamo sempre gli appuntamenti e gli incontri sull'educazione libertaria, i gruppi di lettura come ogni mercoledì dalle ore 21 a casa Crescenzago, e poi andiamo a venerdì sera dove in T28 dalle ore 20 ci sarà la proiezione Sotto un cielo di piombo con Massimo Sestilli e la cena popolare, ci sarà presente anche Carla Ceruso che presenta il documentario film Io sono Fabrizio, un viaggio nella memoria, e questa serata rientra all'interno delle iniziative di avvicinamento al ventennale della Notte Nera di Milano, il ricordo di Dax, Fausto, Iaio e Fabrizio che vivono nelle nostre lotte. Settimana prossima sarà anche la settimana di Sant'Ambrogio e non possiamo non menzionare insomma la fiera, la tipica fiera degli Alter Bay, che si terrà appunto dal 7 al 10 dicembre 2022 dalle ore 9 alle ore 20 tutti i giorni, tante stravaganti bancarelle per magici regali, musica DJ set, artisti di strada, giocoliere, associazioni, street food e vegan, vino del contadino, birra artigianale e vin brulé che con questo freddo non fa mai male, presso il Cavalcavia Bussa a Milano in M2 stazione Garibaldi. Bene, noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata, ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici e lasciamo spazio al programma delle ore 16 di Radio Onda d'Urto. L'ultima traccia che mettiamo è New Order dei Temptation e ci sentiamo settimana prossima. Vai Daina. get wind, I hope. Just like a feeling inside, it's no joke. I know it hurts me to treat you this way. Betrayed by words I've never heard, too hard to say. The circle that's been placed around.